Quae per via celi porta manes, et stella maris succurre cadenti surgere qui curat populo. Tuque genuvis tib, natura mirante, tum sanctum genitore. Virgo prius, ac posteri, Gabrielis amore sumens illudave peccatorum.